tuoi migliori, vai. Allora, il meglio del meglio del nostro meglio, i migliori 10, chiaramente. Sì, beh, certo. Chiaramente. Allora, al numero 10, La Talpa. La Talpa è uno spy movie fatto adesso, ma ambientato negli anni 70, tant'è che è tratto dalle Carré, quindi un classico, fatto classico, è difficile da spiegare perché è fatto classico ma moderno, con un grandissimo Gary Oldman nel ruolo protagonista. Ricordo, sì, esatto. Bel film. Grandissimo. Miseria, sì. Un film molto... è dello stesso autore di Let the Right One In, Lasciami Entrare si chiama in italiano, che era quella storia particolare di vampiri con la bambina vampira, esatto. ed è un film tutto molto asciugato, freddo, algido, con questo protagonista che sembra non cambiare mai espressione, ma in realtà è una grandissima prova di recitazione, eh? Ed è veramente un film che ti fa capire come si possano ricreare certe atmosfere oggi senza fare tarantinismi, senza citare, semplicemente ricostruire un certo tipo di atmosfera. È veramente un film particolare, La Talpa, al numero 10. Riccardino, per i messaggi che ci sono arrivati, basta, tu devi andare sul mio sito www.princefaster.it.com. E lì trovi in alto a destra tutti i miei pellegrinaggi in radio, e quindi trovi tutti gli orari, giorni e compagnia bella. Comunque il martedì e il venerdì, martedì alle 18 sono qui fino alle 21, il venerdì dalle 17 alle 19. Gli altri giorni vai e cerca. E il venerdì il cinema, che potete trovare anche nei podcast. Ma porca miseria! Incredibile! Pensa a te, anche i podcast di Celluloide e Celluloide su Facebook, su internet, cercateli su Google, basta cercare Celluloide e Celluloide e avete la registrazione di tutte le puntate, ma tipo fino a affondano nel 2009, mi sembra. Addirittura. Già dal 2009. E potete poi vedere tutte quelle cose che io avevo predetto e si sono avverate. Senti, ma com'era Django? Com'è stato? Allora, ieri sera ho visto Django Unchained, il nuovo film di Quentin Tarantino. Allora, inizia... liberamente ispirato a Django. Esatto, questa è la cosa che più mi piace. Già come Bastardi senza Gloria... Non c'entrava niente con quel maletto che hanno blindato. No. Questo qui inizia uguale a Django. Cioè inizia con la musica di Django, i paesaggi del West, quelli tipici. Non è l'Almeria come... però insomma, quelli che gli somigliano. Titoli grossi, rossi, uguale. E poi il film non c'entra niente con Django. Non c'è lui che tira, che trascina la cassa da morto. Niente. Però è una gran bella storia, è di questo schiavo che viene liberato da un cacciatore di taglie. Questo cacciatore di taglie lo libera perché lui è l'unico che possa identificare dei banditi a cui lui dà la caccia per prendere i soldi. Quindi lo libera, vanno a prendere questi banditi, incassano i soldi, poi Django gli racconta la sua storia, cioè che lui stava con la moglie in una piantagione, tentano di fuggire, li martoriano di mazzate quando li prendono e li separano. E lui a quel punto decide, cioè questa storia è incredibile, andiamola a prendere, e parte la grande vendetta. Vanno nella mega piantagione con tutti, la più grande tenuta di schiavi del Texas, perché sanno che sta lì. Non raccontare il resto. No, però con un piano incredibile per recuperarla. Veramente è un film che nella prima parte è tutto, cioè il West americano, quindi paesaggi, grandi spazi. E secondo me in questa prima parte Tarantino funziona molto meno. Cioè io mentre la vedevo all'inizio pensavo... tu guarda, Tarantino ha sbagliato un film. Cioè, alla fine doveva capitare. Perché comunque... che sbagliasse il film. E sì, invece... non sembra lui. Invece, quando arrivano poi lì, nella grande tenuta, che c'è tutta la seconda parte del film, che è al chiuso, cioè tra quattro pareti, quelle cose tarantiniane proprio, lì, incredibile. Spacca. Sia di sparatoria, di iniziazione, sia chiaramente di quei dialoghi mostruosi di Tarantino, in cui nel dialogo accadono mille cose. Ma c'è un momento, ti racconto solo un piccolo momento, perché veramente c'è tutto il film, c'è tutta la genialità di quest'autore. Quando arrivano lì, loro arrivano con la scusa di... Vabbè, non raccontarlo. No, beh, ma è solo una piccola cosa. No, ma sveli tutto, non devi raccontarlo. Vabbè, ok, non racconto più. Ne parliamo la prossima settimana, quando l'avrò visto. Dico solo questa scena, la cosa, perché è importante. Vabbè. Arrivano e trovano questo grande proprietario di schiavi nel suo salotto. Lui è uno fissato con la Francia, questo qui, anche se è un americano e non sa niente della Francia, però, sai, così idealmente. Per cui è tutto dandy, tutto ben vestito, il salotto è tutto bello, curato, le luci soffuse, i bei mobili, insomma, una cosa veramente carina, con un caminetto acceso e dei mandingo, cioè gli schiavi neri grossi, quelli da combattimento, che fanno un combattimento mortale in questo salottino. Sono lui, che è il proprietario di un mandingo, il proprietario dell'altro, che li guardano seduti comodamente a gambe incrociate fumando, e questi in 3 metri quadrati, senza spostare il set di bicchieri o le poltrone, si ammazzano sul serio, combattimento mortale, ossa che si spaccano. così, una cosa di una violenza, di un'efferatezza e dall'altra parte di una compostezza, di un rigore che ti fa proprio capire la disumanità di tutto questo. Poi è un film sulla schiavitù, quindi la disumanità di questa oppressione degli uomini contro gli uomini e quelli che sorseggiano e guardano, tutto composto, veramente un momento di cinema, di sapere immaginare qualcosa che ti impressioni e che racconti tanto, pazzesco, pazzesco. Ecco, Riccardino ha perso il segnale, va bene. Tamagnini arriva dopo aver fatto ripartire la macchina spinta, bene, bene, buona fortuna. E dirò un'altra cosa, è il primo film di... Anzi, ah, ma ti racconto sta cosa. Ah, mo ti racconto sta cosa. Intanto perché... grazie per il cadeau, eh. Beh. Ma guarda, ma hai proprio commosso. Come potevo esimermi? Ma hai proprio commosso. Oggi è venuto Tarantino. Ah, lo so. Infatti, tra l'altro, te lo dico, le prossime volte tu non puoi fare quelle cose che fate tardi la sera, poi lui è venuto in ritardo alla conferenza stampa. Ho capito, lo volevo portare qui alla radio. Poi si è messo a dormire. Esatto, capito, quello quando poi dorme. E mi ha detto: no, lasciami per, non me va. Non me... E infatti, è arrivato tardi alla conferenza stampa. Vabbè, alla conferenza c'ero anche io, chiaramente, in prima fila. Adesso non voglio vantarmi, però, insomma, messo lì in prima fila perché mi hanno chiesto di stare in prima fila. Vabbè, ma lasciamo stare. Mi appunto una medaglia al valore io personale. Ho ufficialmente mandato in tilt Tarantino, io personalmente. Ma va, e che gli hai detto? Lui, se non lo conoscete, lui è uno, sembra che si è sempre fatto una striscia di coca lui, perché si è sempre dinamico, mille parole. Non è che gli hai raccontato quello che ti ho raccontato che mi aveva fatto ieri sera, no? No, quello non avrei usato, mi sparava. È uno molto appunto dinamico, che ha sempre mille cose da dire e le dice molto in fretta. Io gli ho chiesto una cosa che è vera, e vi sfido a... Beh, se gliela hai chiesta. Certo. Gli ho chiesto... Come mai, se era una cosa che lui aveva pensato per stare in linea con lo spaghetti western o meno, per la prima volta in un suo film, un personaggio, di quelli principali, non vi dico quale, però un personaggio agisce per idealismo. Cioè, solitamente nei suoi film tutti agiscono per motivi personali, magari tipo Kill Bill, magari fai delle cose pazzesche, però per motivi tuoi personali, per rabbia, vendetta, mai per idealismo. Invece questa qui volta, per la prima volta, uno dei personaggi arriva quasi a concepire di suicidarsi, quasi, per contro la schiavitù. Che era una cosa inedita per il suo cinema. E allora gli volevo chiedere come mai. Glielo chiedo e lui fa 4-5 secondi di silenzio. Allora fa, non credo sia la prima volta. Fa. Poi si ferma. Mi sembra proprio di no. Non, forse no. No. Shosanna in Bastardi senza gloria si fa saltare nel cinema, però non è quello che dici tu, in effetti, no. Ci devo pensare bene, ma io non credo sia la prima volta, no. Ma insomma, non la smetteva, sarà stato un minuto buono a ripetere questa, che si vedeva che ci pensava. A un certo punto ha chiuso dicendo, dovrei ripassare uno a uno tutti i personaggi dei miei film, adesso non posso, però non credo sia la prima volta. E invece sì, è la prima volta. Grande Vasquez che l'ha colto in flagranza. Colto in flagranza di reato, davanti a tutto il cast, che c'era anche tutto il cast. Ma l'hai umiliato? Umiliato. Ecco perché oggi si è ubriacato con l'aranciata. Qua fuori, non entra qui nello studio, ma sta qua fuori. No, voleva venire, solo che, ma c'è quello lì che mi ha fatto quella domanda? Gli ho detto, sì, guarda, non vengo. Che fa quelle cose, poi si leva la giacca, moglie meno. Mi ha detto, no, aspetto qui al bar, sta facendo un cicchetto con i vecchietti qui. Insomma, un bel film, io ve lo consiglio, esce il 17 gennaio Django Unchained, tutte le musiche di Morricone, ma anche molte altre di altri western. Sì, e sai che adesso il prossimo progetto, forse, ha detto che forse il prossimo film che fa... Ma come, doveva smettere, dopo 10 basta? Non è vero, ogni volta dice questa storia, poi gli piace troppo. Il prossimo progetto dovrebbe essere un film sullo sbarco in Normandia, visto dal punto di vista dei soldati neri afroamericani. Lui ha raccontato, questa cosa io non sapevo, che gli afroamericani non c'erano nello sbarco, ma il giorno dopo... Perché erano lì per ripulire i cadaveri, cioè levavano tutti i cadaveri dalle spiagge e i prigionieri, i nazisti fatti prigionieri, scavavano le fosse. Però gli americani erano talmente razzisti e si fidavano talmente poco degli afroamericani che per sorvegliare i prigionieri tedeschi gli davano fucili scarichi, perché non si fidavano di quello che potevano fare. E lui vuole fare un film su questa cosa, la trama ancora non ce l'ha, dice, però questa cosa ci voglio fare un film intorno. Beh, è bella come cosa. Mica male. Lui però becca sempre non cose. È il suo prossimo progetto, in realtà la cosa che sta facendo adesso, qui sta lavorando adesso, è un libro di critica cinematografica su Sergio Corbucci. No. Sì. Ha detto oggi. Sto finendo questo libro su Sergio Corbucci, che era il regista di Django, chiaramente. E di tanti altri film. Sì, certo, del Grande Silenzio, sai? che lui chiaramente adora tantissimo, ed era tutto eccitato perché questa sera vanno, c'è sta la prima di inviti, a quale io ho detto, io ho rimandato l'invito indietro, ho detto no, io lo voglio vedere con la stampa perché sono umile. La prima di inviti con tutti quelli dei registi degli spaghetti western, le star, insomma, gliel'hanno invitati tutti, e lui quindi era, quindi c'è pure Franco Nero. Franco Nero era anche oggi alla conferenza stampa perché ha un piccolo ruolo nel film. E come sta? Gli hai fatto qualche domanda? Guarda, Franco era tanto contento, veramente. Dice, guarda, lavorare con Quentin è pazzesco. E dice che era talmente un fissato degli spaghetti western, Quentin Tarantino, che sul set faceva come faceva Sergio Leone e altri registi degli spaghetti western, metteva la musica sul set, perché tanto usava quelle già pronte dei vecchi, sì. E lui la metteva ogni tanto, e a Franco Nero gli faceva un sacco cuore. Cioè, era una cosa bellissima, col tema di Django lì sul set, è stato veramente straordinario. Che bello. E insomma, lui oggi, Tarantino oggi raccontava che stasera andrà con questa prima, ed era felicissimo. E c'è stato un momento di quelli tipici che si creano quando c'è Tarantino, in cui lui è felice, eccitato e contento, ma dice cose che a noi fanno ridere. Cioè, lui ha detto, è pazzesco, ogni volta, già l'altra volta per Bastardi senza gloria l'abbiamo fatto con i grandi dei film di guerra, e c'erano tutti i miei grandi, gli idoli che io avevo fin da bambino, che stavo in America e li sognavo, cioè, seduto dietro di me c'era Gloria Guida. Era serio lui. E cioè, stavi lì con Edwidge Fenech, Barbara Boucher, e uno accanto all'altro c'erano Sergio Martino, Lamberto Bava, Umberto Lenzi. Era felicissimo di questa cosa. Veramente è sempre surreale questa cosa, questa venerazione che lui ha. Bene, ma passiamo ai film, i più bei film del 2012, anche perché abbiamo solo mezz'ora. Solo mezz'ora. Ce la facciamo in mezz'ora, sì. Tu non numero, 9. Numero 9 c'è un film italiano, perché è stata una media annata per i film italiani. Ah. ACAB. Mm. ACAB, il film di Sollima e di Sollima e Cesarano, cioè Sollima il regista, Cesarano lo sceneggiatore, che sono il team creativo di Romanzo Criminale. Sollima figlio. Sollima figlio, giusto. Ora, Romanzo Criminale era già un film prima di diventare serie TV, quindi il successo della serie TV non è potuta sfociare in un film, perché c'era già stato. Ma non era possibile. Non ricordo, ma il film non era di no, era Sollima, di Placido. Esatto. Quindi la serie TV è straordinaria, chiaramente. Quindi il grande successo della serie TV non è potuto sfociare in un film, chiaramente, perché c'era già stato. Ma Sollima e Cesarano hanno fatto ACAB. E alla fine il punto è il medesimo, perché poco importa che tu sia bandito o poliziotto, quello che loro interessa molto è questo rapporto di bande e violenza. Queste persone che fanno gruppo in una maniera o nell'altra, stando da una all'altra parte della barricata, e vivono quotidianamente di violenza, la violenza all'ordine del giorno. ACAB poi è molto diverso dal Romanzo Criminale, non solo perché è ambientato ora, ma perché ha anche proprio tutto un altro profumo. Tuttavia c'è, si respira un'aria veramente del miglior cinema di genere. Grandissimi interpreti. Ma Sollima sta facendo qualche altra cosa? Devo dire che al momento non so. Mi cogli in fallo. Vabbè, prego. Ottavo film. Al numero 8 dei film di quest'anno, dei migliori film di quest'annata, secondo me quello che è il blockbuster perfetto. Quest'anno abbiamo visto, secondo me, il blockbuster perfetto. Il ritorno al futuro di questa generazione. Non per il tema che tratta, ma per, sai, quanto può piacere, quanto è. Cioè, The Avengers, I Vendicatori. È stato un film che a me è piaciuto moltissimo. Intrattenimento puro, senza nessuna velleità. Molto difficile da fare, perché c'erano molti personaggi importanti messi insieme e molti attori grossi. Non sempre gli attori vogliono stare indisparti, insomma, vogliono sempre essere la parte più importante. Ma un'amalgama straordinaria, un passo, un ritmo, un umorismo. Veramente un film di quelli che io penso rimarranno poi nel futuro come grandi momenti di intrattenimento. E subito al numero 7, The Avengers è diretto da Joss Whedon, un grandissimo, e al numero 7 c'è un film scritto da Joss Whedon, che è Quella casa nel bosco, un horror particolarissimo, anche questo molto divertente, molto intelligente, che racconta di un gruppo di ragazzi, parte in maniera classica, un gruppo di ragazzi, col quarterback della squadra, la cheerleader, quello che è studioso, vanno in una casa nel bosco molto oscura e succede qualcosa di horror, proprio la trama più classica che c'è. Però, come già accadeva in Scream, la serie di film Scream, ad un certo punto capisci che tutto è troppo canonico e non vi posso svelare che succede, però si comincia da metà in poi a giocare con le regole dell'horror in maniera molto divertente. È un film che non vi aspettate, che da metà in poi cambia totalmente. È veramente una cosa che, se non l'avete visto, ve lo consiglio. Si chiama Quella casa nel bosco. Molto, molto, molto carino. Numero 6. Numero 6. Tutti i santi giorni, un altro film italiano. di Paolo Virzì. È un film che è andato malissimo al box office. Io non capisco perché, forse perché non aveva grossi attori a fare la copertina, nonostante poi Paolo Virzì sia molto noto. Però è una storia d'amore. Paolo Virzì non ha mai fatto storia d'amore ed è veramente un film che a me mi ha veramente colpito, molto romantico, molto anche, è un melodramma allegro, un melodramma in forma di commedia in cui ti viene da piangere ma per la felicità. È una cosa veramente molto particolare e soprattutto mi piace tanto di questo film che Virzì fa questa cosa che fa da un po' di film, che lavora sugli spazi, cioè è tutto ambientato nella estrema periferia di Roma, ma non quella degradata, quella molto nuova, quella delle case nuovissime, tutto nuovo, con gli alberi appena piantati. E che, come dice, questa è una cosa che ha detto lui in conferenza stampa, ma è molto vero, che è incredibile perché è Roma, ci sono i romani, ci sono sia i coattoni, quelli non coatti, insomma tutte le varie specie romane, ma sembra la Svezia per l'architettura che ha, perché è stranissimo, sono posti allucinanti, e in questo film ci gioca molto ed è una delle tante componenti che secondo me rendono un film veramente interessante, anche se ha avuto poco successo. 5 Argo di Ben Affleck. Non l'hai poi visto tu, invece io te lo consiglio molto, è un film molto bello. Videoteca. Consultare la videoteca. Argo è un film che è il terzo film che fa Ben Affleck come regista e che ufficialmente sancisce il fatto che non solo questo è un bravo regista, che ormai l'avevamo capito e già era una sorpresa, almeno per me, che fosse un bravo regista, ma che è una persona di una serietà, di un rigore, di una morale, una schiena dritta come poche volte ho visto. Cioè, benché il suo stile non abbia niente a che vedere con quello di Clint Eastwood, in comune hanno questo rigore, un'etica veramente che mi ha colpito. Quello è un film tratto da una storia vera che sembra finta per quanto è incredibile. Negli anni fine anni 70, in Iran, l'ambasciata americana fu conquistata, fu presa dagli iraniani. Fu una cosa, un fatto molto noto, un incidente diplomatico molto grande, e il governo cercava di liberare questa ambasciata. Ma quello che non si seppe per molti anni, per motivi diplomatici, è che durante quei giorni in cui era presa l'ambasciata, 6 americani erano riusciti a scappare dall'ambasciata e si nascondevano, proprio nascosti nei sotterranei, della casa dell'ambasciatore canadese. E gli americani, mentre cercavano ufficialmente di liberare l'ambasciata, non ufficialmente, cercavano di tirare fuori questi 6, che se venivano scoperti venivano direttamente ammazzati, senza passare. Per fare questa cosa, elaborarono un piano senza senso. Cioè, il piano era andare lì e fingersi una troupe cinematografica che doveva girare un film. Arrivare là, quindi fingere che c'era un regista, un produttore, portarono anche gli articoli di giornale veri, perché finsero sul serio, anche in America lo finsero, gli articoli di giornale veri per dimostrare sì, stiamo facendo questo film, dobbiamo girare qui, un film di fantascienza, e poi uscire dal paese con questi 6 dicendo lui è lo scenografo, lui è il costumista. Un'operazione incredibile che Ben Affleck rifà in questo film, mescolando sia cinema di guerra all'inizio con la scena della presa dell'ambasciata, cinema di commedia in mezzo con tutta la parte a Hollywood in cui fingono di fare questo film, e un finale di tensione bellissimo, tutto veramente girato alla grande. Ve lo consiglio sul serio, Argo. Numero 4 è L'arte di vincere, un film poco celebrato, nonostante ci sia Brad Pitt, è un film con Brad Pitt ma poco, se ne è parlato poco, forse perché è un film che racconta anche questo una storia vera, una storia di baseball, che posso immaginare che a molti freghi un po' poco del baseball. Come gli americani il calcio. Dai. Per carità, però questa storia di baseball ha dei punti in comune incredibili con quello che viviamo noi col calcio in Italia, cioè è la storia di vera di questo manager di una squadra diciamo di medio bassa classifica, molto brava a scoprire talenti, molto forte, che magari riesce a prendere un po' di giocatori forti, fare un buon risultato un'annata, ma l'anno dopo le squadre potenti arrivano, gli prendono tutti i giocatori forti e rimangono di nuovo lì, e non riescono a crescere perché c'è troppo divario con quelle che hanno i soldi, che è una cosa non troppo diversa poi dal calcio italiano. Questa è la storia vera di questo qui, che per ovviare a questo problema elaborò un'incredibile strategia fatta di matematica, perché poi il baseball è uno sport molto matematico, fatta di matematica che cambiava, cioè prese un sacco di giocatori diversi, anche alcuni vecchi, quindi non cambiandogli il ruolo, inventandosi un sistema diverso per sfruttarli, per fargli dare il meglio. Il punto della cosa era che questo andava contro tutto il modo in cui si lavorava nel baseball. E il bello della cosa che mi è piaciuta molto nel film è che alla fine, nonostante racconti questa storia vera, è un film su quanto è difficile cambiare le cose, fare delle cose nuove. Ah, quante, dillo a me. Esatto, quante, dillo a me, caro mio. Quanti problemi ti trovi, quante, a lui chiaramente gli danno tutti addosso, la vecchia guardia che gli dice no, le cose si sono sempre fatte così, quelli che gli dicono ma voi con i vostri computer dove andate, ci vuole l'occhio, ci vuole naso, ci vuole l'esperienza, ed è veramente un film straordinario. Come lo capisco. Si chiama L'arte di vincere, molto molto bellino. Ma questo The Master? The Master esce questa settimana, è il nuovo film di Paul Thomas Anderson, che io ho visto Joaquin Phoenix, a Venezia, ho visto Philip Seymour Hoffman, bellissimo, è un film che racconta, questo adesso non c'entra nulla con la classifica, è un film di questa settimana, no, è un io film non esco così, scusate, è l'estro. Sai, noi poeti, noi artisti, questo The Master è un film che racconta, non è proprio esattamente così, però diciamo la falsa riga della storia del creatore di, diciamo, quello che ha fatto partire la religione di Scientology. Nel raccontare questa storia di lui, il master, che è Philip Seymour Hoffman, e Joaquin Phoenix, che invece è uno mezzo scemo, un po' rintronato dalla guerra, si svolge dopo la seconda guerra mondiale, un po' rintronato dalla guerra, un po' bisognoso di una guida, sviluppano questo rapporto particolarissimo. È un film molto bello, io l'ho visto a Venezia in 70 mm, che è un formato particolare. Pellicola 70 mm. Sì, una cosa folle farlo oggi, nell'era del digitale, girare in 70 mm, che è un formato di pellicola particolarmente grande, perché la pellicola normale è 35 mm, particolarmente grande e particolarmente costoso. Che andava negli anni 60. Esatto, 60-70, esatto. Sì. 2001 di Odissea nello spazio, Lawrence d'Arabia sono stati fatti in 70 mm, e che, essendo, è facile immaginarlo, essendo più grande, ha più dettaglio, quindi poi quando si proietta con dei proiettori in 70 mm, è più splendente, più è. A Venezia l'hanno fatto in 70 mm, proiettato correttamente, chiaramente, dal festival. Devo dire, un po' sono rimasto deluso, perché era bellissimo, ma era bello tanto quanto un bellissimo digitale. Cioè non era qualcosa di... Ah, non è come la musica, esatto, come l'audio. No, perché la quantità di dettaglio che poi il digitale riesce a riportare... per farla breve, la differenza tra pellicola e digitale, a quella che ancora forse non è colmata, ma è questione di momenti, è la dinamica. Cioè non è quanto dettaglio puoi avere o quanta definizione puoi avere, che anzi il digitale ne ha di più, ma diciamo quanta differenza c'è, quanti strati ci sono tra il bianco e il nero, detto in pratica, quindi tra la luce e l'ombra. Se vi ricordate bene, i primissimi digitali, quelli di metà anni 90, quelli, insomma, quelli di cattiva qualità, avevano poche sfumature, c'era o rosso, nero, esatto, bianco, insomma, sì, o luce o ombra, mentre invece più andiamo avanti più è morbido, però diciamo quella è la principale differenza. Io vedendo questo qui in 70 mm devo dire che veramente, se nessuno mi avesse detto nulla, io avrei detto ah, bel digitale questo, però si vede proprio che è digitale. E invece pensa, ancora oggi nell'audio, nella musica ancora non si riesce, lo strumento che a tutt'oggi rimane imbattibile è un apparecchio costruito negli anni 40. Incredibile. Cioè la bobina. Ah, la bobina più del vinile. Ah, non c'è dubbio. Non c'è assolutamente dubbio. La bobina è magnetica, la bobina, no? La bobina, la famosa, sì, bobina, sai, Revox. Esatto, a nastro magnetico. Nastro magnetico. Okay, il nastro magnetico a tutt'oggi, incredibile, è il supporto inarrivabile, che sbaglio, inarrivabile. O è il padre, è la versione chiaramente migliore dell'audiocassetta. La cassetta è la versione peggiore di quella, sì, tecnologia. La cassetta fa schifo. Sì, però diciamo, la tecnologia però è quella, teoricamente. La tecnologia è quella, sì, okay, sì, sì, solamente che quelli sono pollici diversi, poi c'è a due tracce e quattro tracce, il due tracce è assolutamente neanche a parlare. Non ho sentito un Sgt. Pepper in due tracce, master originale. E lo conosco a memoria, Sgt. Pepper, sì, dei Beatles, chi è che non lo conosce? E a parte che i brani durano un pochino di più, cioè c'è qualcosa più lento? No, c'è più musica, ci sono più cose alla fine, dura un po' di più. E poi la realtà è inarrivabile, la realtà degli strumenti, della presenza, della dinamica, della scena sonora. Non ha rivali. Però non ha rivali con niente, né con il vinile, non ne parliamo, insomma il vinile viene stracciato via proprio, il CD e gli MP3 neanche a parlarne. Incredibile. E pensa che a tutt'oggi è il supporto dove si ascolta la musica in maniera migliore, cioè una cosa inventata negli anni 40, pensa. Pazzesco, incredibile. Ancora nessuna tecnologia è riuscita a battere ma neanche lontanamente, neanche proprio dici, sai, ci siamo vicini, no, è proprio ere siderali, è come mm-hmm. per te i fratelli Lumière e oggi è vedere sì, il 48 bit. Sì, certo, certo. Però al contrario. Certo, certo, certo. Cioè la tecnologia al cinema è cresciuta in maniera esponenziale, la tecnologia nell'audio è andata avanti, ma non è mai cresciuta, è degenerata, al contrario del, mm-hmm. del cinema. Ha solo degenerato il suono. Incredibile. E comunque ha fatto supporti piccoli, sempre più piccoli, sempre più portatili, sempre più portatili, sempre più portatili, ma ha degenerato il suono in maniera... Nei film in pellicola pure l'audio è registrato così. Cioè la pellicola ha accanto, cioè l'immagine e accanto la traccia certo. audio che è su magnetico. Quindi anche lì sulla pellicola si registra così. A febbraio farò un'alta fedeltà, una domenica alta fedeltà. Ci saranno le bobine? Dove ci sarà la bobina e ascolterà chi verrà avrà la fortuna di ascoltare un Sgt. Pepper su due tracce. Imperdibile direi. Che non... Con le cuffie o con un impianto? No, con l'impianto, okay. L'impianto ben fatto, vabbè, non di quelli estremi, insomma, non high-end. Un buon impianto, diciamo, praticabile da tutti. Sì, che con una spesa seria ti puoi fare anche tu. Ma non... Poi faremo le prove. Attacca-stacca, quindi faremo la differenza tra vinile, tra CD, tra MP3, sempre dello stesso brano. Quindi si capirà la differenza proprio tra, ripeto, tra il bianco e nero e il digitale 3D. È così, bene, bene. Solo che al contrario. Vabbè. Podio dei migliori dell'anno. Oh! Al terzo posto un film romanticissimo, ancora nelle sale potete ancora vederlo, è Moonrise Kingdom, il nuovo film di Wes Anderson. Ogni film che fa Wes Anderson sembra il migliore che abbia mai fatto e questo qui non fa eccezione. Se lo conoscete, lui è il regista di Il treno per il Darjeeling, di Fantastic Mr. Fox, I Tenenbaum, Rushmore, Le avventure acquatiche di Steve Zissou. Fa i film tutti molto simili, lui ha una mano pesante, è uno che si vede subito, il suo tratto, i suoi colori, i suoi personaggi, le sue inquadrature. Questa volta tutti questi suoi tratti tipici che sono presenti sono messi a frutto in maniera inedita, cioè in maniera ancora più pregnante. Stringi perché devo chiederti due cose sui nuovi film. Strigno. E comunque è strigno. È una storia romanticissima, veramente molto molto bellino. Moonrise Kingdom. Al numero 2, il film più politico dell'anno, non l'ha capito... Non l'ha capito nessuno, l'ho capito solo io questo film. Adesso non c'è bisogno di dire perché. Project X è il film più politico dell'anno, è un film che racconta di tre ragazzi sfigati in un liceo americano che vogliono fare una festa per diventare popolari. Come sempre capita in queste feste, la fanno a casa di uno di loro quando i genitori non ci sono. E la vogliono fare talmente grossa che spargono la voce, fanno di tutto perché sia la festa più grande in assoluto e gli sfugge di mano ad un livello incredibile. Ora, fino a qui sarebbe un film tipico, tipo, tra virgolette, Una notte da leoni, perché poi ha anche gli stessi produttori, quindi è pensato in quella maniera per essere questi film sull'esagerare con le feste. Ma poi ad un certo punto... Animal House. Quando... Esatto, comincia a girare dalle parti di Animal House, ma a un certo punto, durante questa serata, le cose realmente sfuggono di mano. E per dico sfuggono di mano, degenerano proprio. A dare fuoco a un quartiere intero. Arriva la polizia, l'elicottero con la luce della polizia, perché la gente è troppa, stanno facendo troppo casino, troppe droghe. È un film che non ti fa vedere le cose peggiori. È molto maschilista, ci sono droghe, c'è tutto, ma non ti chiede mai scusa. Non è che poi si giustifica e dice, ah, ma noi ci siamo pentiti. No, è un film dove si va veramente al masso, e quando arriva la polizia, questi ragazzi, che non sono, non fanno parte di una comunità, non è che non si conoscono nemmeno tutti, è gente che è venuta a una festa, cominciano a combattere contro la polizia senza un motivo, senza anche un perché, solo perché sono strafatti e perché volevano fare festa, punto e basta. E c'è, si sente un'esigenza di ribellismo di una generazione che poi non ha ideali, non è fortemente connotata da ideali, che semplicemente lo vuole fare perché sì, ribellarsi a un sistema, non importa quale che sia, che devo dire è veramente forte. C'è un istinto di vitalità che poi ha un passo dalla morte, perché fanno cose, cioè si buttano dal sotto l'effetto di droga, si buttano dal tetto della casa in piscina sfiorando il pavimento, cioè erano delle cose senza senso, tutto ripreso con telecamere a mano, come se fosse i film horror quelli ripresi a mano, sì. Che è molto intelligente come idea, perché quando arriva la polizia diventa una guerra, diventa tipo combat film, diventano immagini come di guerra, ed è veramente un film divertentissimo, a parte che è una commedia, quindi è molto divertente, ma poi è... Hai trovato questo lato politico, capito? No, vabbè, mamma mia. E ho pensato, vedi come c'è svorto con questo a fine anno? C'è la miseria, oh. E invece al numero uno? È al numero uno un film francese! No! Ah, la Francia! Un sapore di ruggine e ossa, che è un titolaccio. Ma va via, va. È un titolo terribile, purtroppo. Ma un sapore di ruggine e ossa. Quasi amici. No, no, no. L'intellettualismo. Un sapore di ruggine e ossa è un film che poi in realtà non è particolarmente io intellettuale. È un film, che ne so, arabo. Poi purtroppo non sono usciti, che peccato. No, c'era una volta, c'era una volta in Anatolia, un film turco, è il mio undicesimo, è il mio undicesimo preferito. Un sapore di ruggine ossa racconta una storia pazzesca di una donna addestratrice di delfini che per un incidente un'orca gli mangia le gambe. Cioè gliele proprio gliele mangia. Lei è Marion Cotillard, quella che ha fatto anche i film di Batman, insomma. Quindi rimane mutilata, e questo è proprio l'inizio del film. Rimane mutilata e incontra casualmente in una discoteca questo qui che fa il buttafuori e che è un disperato. È uno che sì, fa il buttafuori per arrotondare, ma in realtà fa i combattimenti per strada, quelli a mani nude e torso nudo in tuta. Quindi una bestia, il massimo della potenza, cioè un animale, e il massimo del fragile, una ragazza poi mutilata. E sviluppano una relazione incredibile. È un film veramente particolare, perché non è la solita storia d'amore, benché finga di esserlo per motivi commerciali, per portare la gente al cinema. In realtà è un film sul massimo del duro e il massimo del morbido, cioè come queste due cose abbiano una relazione stranissima. Posso dire yin e yang? Lo ying, perché in uno c'è un po' dell'altro e nell'altro c'è un po' dell'uno. Capito. Bastava questo per dare il senso al film. Tu esatto, sei spetticato ho in parole. Parlato un'ora e invece capacità bastava di sintesi, questo. Caro mio. Capacità di sintesi. In serio. Quindi al numero uno questo film, Un sapore di ruggine. C'è un romanticone. Lo so, è un anno romantico. Immagino. Ma invece parliamo dei film usciti questa settimana. La migliore offerta. Vedo che lo guardi. Lo guardo curioso. È un film che io definirei con un termine veramente ricercatissimo. Apolide, un film senza patria, un film che sembra non venire da nessuna nazione, che se io te lo facessi vedere ti dicessi dove è stato, cioè il cineasta o lo scrittore che l'ha scritto, da dove viene, non me lo sapresti dire. Tornatore ha questa proprietà, ogni tanto riesce a infilare questi film, era così una pura formalità o la sconosciuta, che veramente hanno un respiro internazionale. Questo qui è un film con Jeffrey Rush come protagonista, che lo ricorderete, era quello che faceva il pianista di Shine o l'insegnante di il discorso del re, l'insegnante che, il logopedista del signore il discorso del re. C'è anche Jim Sturgess, che è un altro molto noto, insomma sono tutti attori internazionali. Donald Sutherland, secondo me è l'unico un po' fuori posto, nel senso c'entrava un po' poco questo film, però comunque ti fa cartellone. Non ci sono attori italiani, non vorrei sbagliare, no, non ci sono proprio attori italiani per nulla. È un film girato tra la Svizzera, Torino, la Germania, in mille posti diversi, e racconta una storia tipica di questi film di Tornatore. Cioè quando Tornatore si mette a fare questo tipo di film, racconta sempre queste storie che tu capisci da subito che ci sarà una grande risoluzione finale. Cioè è una storia piena di misteri che si avvita, che non si capisce che sta succedendo, e poi alla fine si capirà. Inizia con il protagonista, che è un antiquario, però di quelli ai massimi livelli, che fa il banditore delle aste e che lo chiamano quando c'è da valutare un'eredità. Cioè lui va in queste case e dice: questo è una cosa di valore, questo no, questo è un dipinto di un imitatore, non è il vero. Insomma è uno che valuta, e sviluppa una reazione stranissima con una cliente che non si fa vedere. Cioè lei sta sempre dietro una porta perché è agorafobica. E lui questa cosa lo intriga da morire, però scoprire perché è agorafobica, se è vero o non è vero, insomma si creeranno mille misteri. È un thriller di medio livello, secondo me, non è eccezionale. Però insomma è una cosa veramente curiosa da andare a vedere. E invece Jack Reacher è il nuovo film con Tom Cruise, quello che c'è Werner Herzog come cattivo, che è chi lo conosce, Werner Herzog è un regista incredibile, il fatto che qui faccia il cattivo è esilarante. Jack Reacher è un film molto commerciale. Herzog non l'ha fatto, anche i nanni hanno cominciato da piccoli. Esatto, il primo film di Herzog, anche i nanni hanno cominciato da piccoli. Che film assurdo. Geniale, geniale, vabbè, ma lasciamo stare. Questo pezzo della macchina che gira intorno. Col nano che ride, stupendo. È un film su una rivolta in un manicomio di nani. Una cosa, come gli è venuto in testa? Vabbè, comunque. Come? Scusami. Se lo conosci. Vabbè. Scusami. Jack Reacher è un film tratto da una serie di libri. I libri di Jack Reacher abbastanza noti. Io non li conoscevo, ma mi hanno detto che sono abbastanza noti. Con questo protagonista che è un investigatore militare, cioè un ex militare, che quando stava in servizio faceva le indagini per i crimini che commettevano i militari. Chiaramente rientra in causa in questo film perché c'è la polizia cattura un omicida che era un militare. il quale sostiene di non essere stato lui e dice: chiamate Jack Reacher, è l'unico che mi può scagionare. Ah, ne abbiamo parlato. Esatto, sabato, è un po' un finto James Bond, scusami, un finto Sherlock Holmes, perché ha queste deduzioni incredibili che tu non ci potrai, cioè, non puoi stare in gara con lui, non ci arriverai mai. Ed è un po', beh, immaginate, un film con Tom Cruise protagonista, chiaramente lui è un po' un superuomo, chiaramente. Ma insomma, è carino, ecco, è carino, è un film salvato dai comprimari, cioè un Robert Duvall straordinario e chiaramente Werner Herzog. Ma Gambit non è un remake di un film? Gambit non l'ho visto, ma no. Esce tra, insomma, esce tra un po', insomma, il 7 febbraio, però dei fratelli Coen. No, non credo sia un remake, devo controllare, non credo. So che c'è un altro film con questo titolo, ma non credo siano imparentati. Vabbè, ce ne andiamo così come siamo arrivati, senza ovvero perché. Grazie a tutti e a tutti, ricordatevi sempre che una pietra che rotola non coglie sugo. Saretta, grazie Sara. Oh. Dai una botta al microfono. Dove parli? Mi hai cercato un dove occhio. Parli? Da qua. Non volevo invadere. Ma no, invadi, vai. Eccomi. Oh, grazie Sara, grazie, ci vediamo venerdì prossimo. Come dire, consiglio comunale permettendo, un messaggio l'ho visto, un sapore di chi era con me voleva menarmi, però ma no. È vero, bello. Grande, grande Daniela. Hanno tolto il sapore di ruggine ossa, il film per me numero uno dell'annata. C'erano dei salti un po' strani in quel film. Tipo? Quelle domande che ti avevo fatto. Tipo a un certo punto lui si ritrova improvvisamente sulla neve. Ah, sì, perché passa del tempo e diventa inverno. Sì, però... Non è vero, è poco convenzionale, solitamente non capita così. Solitamente non si vedono queste cose che di punto in bianco è inverno e neve e sono passati tre mesi. E non te lo scrivono, non ti scrivono tre mesi dopo. Ed è... No, e poi soprattutto lui è diventato famoso, fa dei combattimenti. Cioè, ci sono dei salti un po' sì, bruschi. Sì, spiazzante, però secondo me è buono. Ne vale la pena. Ma Superman esce o no? Sì, forse giugno, maggio, giugno, una cosa del genere. Il mondo è troppo grande, mamma. Fallo diventare piccolo. Concentrati sulla mia voce. Fa finta che sia un'isola in mezzo all'oceano. La vedi? Ma è l'uomo d'acciaio? Vedo. Esatto, l'uomo d'acciaio. È questo. Che ha un trailer che sembra Tree of Life di Terrence Malick. Ha visto quello che ha fatto Clark? Devi tenere segreta questa parte di te. E che cosa dovevo fare? Lasciarli morire? Può darsi. Ho così tante domande. Da dove vengo? Anche psicologico, introspettivo, è fatto dal regista turco. Quell'uomo. Il regista di 300 cambierà il mondo. Se fosse Gune. C'è Russell Crowe che fa il padre, Jor-El. Da vedere, eh? Sì, la grande curiosità vera per chi ha visto questo trailer è se il film è tutto così o solo il trailer è così. Questa è la grande curiosità. Io che spero sempre nelle cose strane, spero sia tutto così. Bello incasinato. Sì, che sembra. Esatto. Che vogliono fare una cosa altissima, ma poi con un personaggio dei fumetti. Insomma, mi piacerebbe molto, ma chissà. Sarebbe bella, bella idea. Sì, bella idea. Grazie, Vasquez. Arriva Tamagnini, che sta già qua pronto. Vai, Tamagna, vai. Ben arrivato, come va? Tutto bene. È partita la macchina. Ho visto Superman con la barba, però, non si può vedere. No, a un certo punto c'è la barba. Ma questo è un film introspettivo turco. Ah, capito? Okay. Un regista turco. È il Superman turco. È il Superman dell'Anatolia. Esatto. Giustamente. Grazie, vi lasciamo le mani di Damagnini, che oggi vi parlerà di novità 2013. Ah, classifica 2012 l'hai fatta? No, perché col consiglio abbiamo saltato due settimane. È vero, io pure. Oggi ho fatto un riassunto proprio una cosa. Sì, vedremo. Vabbè. Grazie a tutti e buon resto di Radio Città Aperta. A martedì alle 18. Grazie, ciao.